in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei giornali. Oggi ci sono anche i supplementi culturali come ogni domenica, quindi spero di riuscire a farvi più segnalazioni possibili perché sono veramente tutti molto interessanti. Cominciamo però dal nostro giornale, dal Sole 24 Ore, che apre sulla due giorni a Parma di Confindustria, che è stato anche l'ultimo intervento pubblico dell'attuale presidente Squinzi, che ha quindi passato un po' il testimone al nuovo presidente Boccia, e il titolo scelto per riassumere il suo discorso è: ora la nostra sfida è costruire una nuova visione delle imprese. Sapete che questo è uno un po' dei temi che sicuramente è importante in Italia, cioè come vengono viste le imprese. A volte vengono viste, c'è una cultura che viene spesso definita anti-impresa, e anche le relazioni industriali, quindi le forti contraddizioni con i sindacati, sono state sicuramente un freno per certi versi all'evoluzione del paese, per responsabilità congiunte naturalmente, ma quello che ha detto Squinzi è appunto: serve un'immagine aderente ai tempi mutati. C'è poi uno specchietto che spiega, perché poi appunto può sembrare solo un proclama confindustriale, in questo semplicissimo schema di prima pagina si spiega perché questa enfasi sulle imprese. La quota di aziende innovative sul totale: in Italia siamo a una quota altissima sul totale dell'industria manifatturiera, seconda soltanto alla Germania, dopo di noi vengono Francia, Regno Unito e Spagna, quindi da qui appunto la spinta innovativa. Trovate la cronaca della due giorni di Parma, le pagine 2 e 3, e l'analisi di Paolo Brico a pagina 3. Un approfondimento sulla, come sempre, su un titolo quotato, la lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini. Questa settimana è Prima Industrie, un'azienda high tech che si è inventata a proposito di innovazione questo nuovo prodotto, un laser fibra, che verrà anzi è già venduto in Cina, ed è su questo che la Prima Industrie, questa azienda, si affida per rilanciare la redditività. Trovate tutta l'analisi, come sempre una pagina intera che analizza per l'appunto il bilancio di un'azienda quotata, e a pagina 18. E poi il consueto intervento domenicale dell'arcivescovo di Chietivasto Bruno Forte, che questa settimana non poteva che essere dedicata a Amoris Laetitia, l'esortazione apostolica di Papa Francesco dedicata alle famiglie e all'amore. Il titolo: la realtà e i protagonisti delle nuove famiglie, con un approfondimento a pagina 10, e vedremo anche su altri giornali si torna su qua, naturalmente in primis l'Avvenire, che la pubblica quasi integralmente, si torna su questo sull'ultimo intervento in ordine di tempo di Papa Francesco. Il Corriere della Sera ha un titolo diverso e si riferisce a quello che ieri Renzi ha detto sulle inchieste di Potenza, quindi le inchieste che coinvolgono da una parte l'ex ministro per lo sviluppo Federica Guidi, che si è dimessa per quelle telefonate definite inopportune politicamente con a questo punto ex anche lui compagno Gianluca Gemelli, perché gli anticipava l'approvazione di un emendamento che avrebbe aiutato gli affari dello stesso Gemelli, ma poi sono molte altre le inchieste della Procura di Potenza in generale sulle questioni ambientali dello sfruttamento del territorio in Basilicata legato alle compagnie petrolifere. E siccome su questo si è sviluppato l'ennesima polemica, anche un po' basata sul nulla, se volete, cioè basata sulle solite due o tre frasi su cui poi si sviluppano in innumerevoli teorie e critiche, si è sviluppata appunto l'ennesima polemica tra, diciamo, potere esecutivo, cioè governo, e potere della magistratura. Renzi ha ribadito: contro il nostro governo c'è un'offensiva mediatica, e sulla questione dei magistrati, che tra l'altro ieri hanno eletto il loro nuovo presidente dell'ANM, che è Pier Camillo Davigo, personaggio simbolo di Mani Pulite, dell'inchiesta di Tangentopoli di ormai 92-2002, di ormai 25 anni fa, e sui magistrati né attacchi né subalternità. La fotonotizia è dedicata alle manifestazioni di ieri a Londra. Vedremo che ci sono alcuni commenti all'interno. Il cartello che vediamo nella foto è "He's got to go", se ne deve andare, Cameron dimettiti. Il riferimento è al coinvolgimento di David Cameron nello scandalo dei Panama Papers, di cui abbiamo sentito tanto parlare questa settimana. Lui personalmente non aveva un conto a Panama, non l'ha mai avuto, ma lo aveva il padre, e questo fondo, questo trust, era, non si capisce bene, perché lo stesso Cameron ha ammesso, e questa è anche una cosa molto strana per l'Italia, però ha detto pubblicamente: ho sbagliato a raccontare il mio coinvolgimento. In ogni caso si contano 5 diverse versioni di questo coinvolgimento, più che di Cameron stesso, della sua famiglia in questi conti a Panama. Il conto del 30.000 sterline del conto che il padre aveva a Panama sarebbero state ereditate da Cameron, che poi però se ne sarebbe disfatto, diciamo così, prima di candidarsi, cioè nel 2010, prima di candidarsi a Premier. Questo non basta a molti, a molti esponenti dell'opposizione, anche a cittadini comuni, che ieri hanno dimostrato davanti proprio a Downing Street a Londra la residenza del Premier. Un altro titolo, però non il titolo principale ma un titolo importante della prima pagina, dedicata alla questione Regeni: scontro totale con l'Egitto, l'Italia è pronta a fermare turismo intese. Avete seguito sicuramente la vicenda anche qui sentendo i GR di Radio 24. Era sembrato che ci fosse veramente uno spiraglio per non ripetere l'incresciosa vicenda dei Marò in India, cioè che veramente si potesse arrivare a una verità in tempi abbastanza brevi. L'omicidio di Giulio Regeni risale a più di 2 mesi fa, erano arrivati 4 giorni fa degli investigatori dal Cairo, si sperava che veramente collaborassero con quelli italiani, così di fatto non è stato, perché hanno per esempio negato l'accesso alle intercettazioni telefoniche di Giulio Regeni, sulle quali così tanto contavano gli investigatori italiani, e ora appunto si profila una rottura con una posizione molto, e forse anche direi insolitamente forte, del governo italiano. La Repubblica parla della questione Regeni da un taglio un po' diverso, perché secondo il team degli investigatori il Cairo spiava l'Italia. È da 8 settimane che è sotto osservazione anche la nostra ambasciata al Cairo. Sfida a Roma: non vi daremo i tabulati di Regeni. E il ministro degli esteri Gentiloni ha risposto: pronti a lavorare su nuove misure. Ma vi segnalo una breve lettera di Paola Regeni, la mamma di Giulio Regeni, che ovviamente sta combattendo per la verità sulla morte di suo figlio, e che scrive questo: giorno dopo giorno emerge con sempre più forza come la tragica vicenda di Giulio abbia emozionato tantissime persone che con discrezione si avvicinano alla nostra famiglia esprimendo la loro partecipazione con una lettera. Lettere di affetto, solidarietà, sostegno nella ricerca della verità e soprattutto di empatia. Molte lettere indirizzate a Repubblica sono di mamme che con estrema delicatezza chiedono di poter considerare Giulio anche figlio loro. Questo mi fa ricordare come Giulio, ovunque andasse per i suoi studi o per lavoro, trovasse sempre qualcuno che lo adottava per simpatia, per aiutarlo, per condividere riflessioni, per affetto. Grazie a tutti, e un grazie speciale alla mamma che si è ricordata di quando leggevo a scuola La Pimpa, regalandomi un'identità che in questi tristi giorni mi ero dimenticata di avere. Grazie, mi ha aiutato a ritrovare energia per continuare. Poche parole che naturalmente ci toccano tutti, perché sono le parole di una madre che cerca la verità e che vuole giustamente con forza ribadire i veri tratti della figura di suo figlio, come lo ricorda lei, ma come lo ricordano tantissime altre persone, e non come lo hanno voluto screditare in mille modi diversi dall'Egitto in questi oltre 2 mesi dal suo assassinio, arrivato, lo ricordiamo, dopo una settimana di torture. Prima della pausa, dove sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo con questa primavera che sembra finalmente arrivata, il titolo del Messaggero ancora diverso: intercettazioni arriva alla stretta, quindi tutto legato ancora una volta alle inchieste di Potenza. Il governo, secondo il Messaggero, sta accelerando, arriverà una legge entro l'estate, e qui si profila già un altro scontro con i magistrati, perché ieri una delle prime cose che Pier Camillo Davigo, nuovo presidente dell'ANM, ha detto è: non serve una nuova legge sulle intercettazioni, basta applicare le norme che ci sono già. Ma ci lasciamo un attimo, ci ritroviamo tra poco. Tempo in diretta. Previsioni a cura di Trebi Meteo. Una buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo e gli ascoltatori di Radio 24. Netto miglioramento del tempo oggi nelle regioni centro-settentrionali, dove sin da queste prime ore del giorno ci attendiamo il ritorno di schiarite via via sempre più ampie. Insisterà ancora qualche annuvolamento qua e là stamattina, ma poi, ripeto, il tempo si rimetterà al bello in maniera anche abbastanza decisa. E con temperature che al centro-nord risulteranno gradevoli oggi, toccheremo i 20 gradi, riusciremo anche a superarli. Invece al sud insiste ancora un po' di variabilità, soprattutto questa mattina rischiamo ancora qualche acquazzone, qualche piovasco, forse anche qualche temporale, ma nel corso del pomeriggio le precipitazioni si attenueranno e piano piano si faranno avanti delle aperture sempre più marcate. Come temperatura al sud però valori in diminuzione rispetto ai giorni scorsi, rimarremo al di sotto dei 20 gradi. Con questo è tutto, per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com. In primo piano. Rieccoci ancora, buongiorno da Giulia Crivelli, buona domenica. Eravamo sulla questione delle intercettazioni, credo che ne parleremo ancora tanto nei prossimi giorni. Il Messaggero anticipava questa intenzione del governo di presentare entro l'estate una nuova legge sulle intercettazioni, ed ecco La Stampa che titola sul nuovo presidente dell'ANM Pier Camillo Davigo, che tra l'altro è di Torino. Davigo alla guida dei magistrati, e dice subito La Stampa, una delle prime dichiarazioni di Davigo, che bacchetta Renzi, ci rispetti. E anche La Stampa accenna al fatto che l'esecutivo sta però preparando una nuova legge, anche se, come vi dicevo, una delle primissime dichiarazioni di Davigo è stata: sulle intercettazioni bastano le norme attuali. La fotonotizia è dedicata a una di delle tante inchieste che La Stampa fa, specie in questo nuovo corso con il direttore Maurizio Molinari. Ogni settimana almeno un paio di inchieste uniche proprio, che troviamo solo sulla Stampa. Ricordo quella sulle adozioni di 2 o 3 settimane fa, per esempio, molto interessante. Questa settimana il tema è i minori che arrivano in Italia dall'Africa. Pensate, 30 al giorno. Nei primi mesi dell'anno sono quadruplicati. Molti finiscono tra gang e sfruttamento. E l'articolo e l'inchiesta li trovate a pagina 8 e 9. Sono a cura di Andrea Malaguti e Francesco Frediani. L'Unità, tutti per Giulio, con un bel ritratto di Giulio Regeni. E anche l'Unità è molto impegnata come giornale a raccogliere gli appelli, a tenere viva l'attenzione su questi temi. Molto meno viva, almeno in prima pagina, l'attenzione sull'altro tema, appunto quello delle inchieste di Potenza e dello scontro che si profila di nuovo tra magistratura e governo sul tema delle intercettazioni. Sull'Unità in prima pagina questo non c'è. Invece c'è, con una certa enfasi, sul Fatto Quotidiano, che proprio apre titolando: Renzi grida al complotto e vuole il bavaglio sulle intercettazioni. Molti gli approfondimenti, anche di nuovo sulla questione, sulle indagini di Potenza, e poi un accenno al fatto che l'ANM appunto ha eletto Pier Camillo Davigo, che chiede, e il virgolettato scelto dal discorso, dalle prime parole dette da Davigo, scelto dal Fatto Quotidiano, è: il governo rispetti le toghe. In prima pagina anche una notizia che trovate anche sugli altri giornali, non con questa enfasi: Passera bacia Parisi, ora per Sala sono guai. Cosa significa? Che Corrado Passera, che era candidato sindaco per il centrodestra a Milano, si è ritirato, dicendo che però darà il suo sostegno a Parisi. Passera era dato circa il 6% nei sondaggi, contro il 34-35, 35-34, insomma sono più o meno alla pari, Giuseppe Sala, candidato del centrosinistra, e Stefano Parisi, candidato del centrodestra. Un'intervista poi trovate a pagina, richiamata in pagina, a pagina 8 di Enrico Mentana, che in realtà le interviste le ha date praticamente a tutti i quotidiani su questa questione, con un po'... così, tradendo un po' quella che era diventata la sua cifra, un po' magari di sobrietà su certe questioni negli ultimi tempi. Insomma, lui si è espresso, dico tradendo la sua cifra di sobrietà, perché è di fatto parte in causa in questo grande risico editoriale, perché lui è il direttore dell'informazione della Sette, e ora sapete che Cairo, che è il proprietario della della Cairo Comunicazione, che possiede anche la 7, ha lanciato un'offerta pubblica di vorrebbe lanciare un'offerta sulla RCS, e ci sono molti aggiornamenti su queste questioni, le vedremo su altri giornali. E l'intervista di Mentana viene titolata "Con Cairo la RCS avrà quasi un editore puro", e su questa questione appunto trovate poi, se avremo tempo, l'intervista e anche molti approfondimenti sul Fatto Quotidiano, che è il giornale che in assoluto, in proporzione e in assoluto, dedica più spazio a questo risico editoriale. Il giornale titola su quello che viene definito guerra totale per il Corriere: l'offerta di Cairo spacca la finanza, Mediobanca, Pirelli, Unipol e Della Valle non ci stanno, perché quando Mentana parla di editore unico, il fatto è che in questo momento il Corriere ha tutto meno che un editore unico, nel senso che ha molti proprietari, molti editori, molti proprietari di riferimento, tra cui questi sono i più importanti, mentre sapete che la Fiat si è di recente defilata. Libero: le 7 città delle tasse sono tutte di sinistra, un'inchiesta di Libero sulle città dove si pagano più tasse locali. IRAP quasi al 5%, somma delle addizionali, questo in generale, somma delle addizionali IRPEF tra il 3 e il 4,5, IMU oltre l'1. I municipi tartassati dalle giunte PD SEL, quelli, e questo è, devo dire, l'inchiesta, come tutte le inchieste, è secondo me insomma meritevole assolutamente. Questo però è uno dei titoli dei sommari più sgrammaticati che abbia visto negli ultimi tempi, ve lo rileggo: i municipi tartassati dalle giunte PD SEL, due punti, quelli che possiamo mandarle a casa votando. In ogni caso, appunto, in questi municipi che poi trovate all'interno e che sono in particolare Milano, Bologna, Firenze, Aosta e Torino, ci sono queste tasse record. Poteva mancare un articolo di Antonio Socci, critico, anzi di più, sull'intervento di Papa Francesco sull'amore e sulla famiglia? Certo che no. Ce n'è stato uno ieri, ce n'è uno anche oggi, che si intitola "Quelli che non mandano giù la comunione ai divorziati". Sapete che Papa Francesco ha aperto appunto ai divorziati. "Primi cenni di rivolta nella Chiesa". Trovate un'intera pagina, la pagina 13, dove appunto Antonio Socci continua questa sua critica veramente senza se e senza ma a tutto quello che fa Papa Francesco. Se fa una cosa è sbagliata, se fa il contrario è sbagliata anche quella. E il titolo della pagina 13 è "Le conseguenze dell'esortazione, la gioia eretica dei menestrelli di Bergoglio". L'Avvenire titola invece "Le famiglie accolte". Avvenire è, lo ricordiamo, oltre a essere, come io sempre ripeto, un giornale che dà tantissima attenzione alle questioni di cui altri giornali si dimenticano, specie all'estero, specie tragedie dimenticate, è anche il quotidiano ufficiale della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, l'organo che raggruppa i vescovi. "Le famiglie accolte, l'esortazione del Papa e Monsignor Paglia che dice svolta storica". E tra l'altro all'interno trovate la prima parte, le altre due saranno pubblicate martedì e mercoledì, di questo intervento di Papa Francesco, appunto Amoris Laetitia, la gioia dell'amore in latino, che ha toccato, come sapete, tantissimi temi. Il Manifesto ha una fotonotizia, come sempre con un titolo un po' a effetto: è un attivista di Greenpeace nel mare, potrebbe essere probabilmente il mare della Basilicata. Il titolo: "L'oro vero", cioè l'acqua. Un 17 aprile, un sì per il mare. A 7 giorni dal voto, mobilitazione straordinaria, lo ricordiamo appunto, domenica prossima si vota per questo contestato referendum. Comitati e associazioni chiedono al governo di imitare la moratoria alle estrazioni petrolifere decise per esempio dalla Francia e dalla Croazia. E stasera a Bari, l'epicentro della battaglia referendaria, un concertone per il sì. Beh, la Gazzetta dello Sport naturalmente titola sulla vittoria della Juventus, che l'ha portata ad accelerare la sua fuga verso il suo quinto scudetto consecutivo, perché sapete che adesso in questo momento è a 9 punti sul Napoli. Napoli deve ancora giocare, vincesse oggi però la Juventus sarebbe anche comunque a più 6. Juve diabolica, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. Sulla questione Regeni, dalle pagine interne dei giornali, vi segnalo l'analisi di Ugo Tramballi. Forse l'avrete sentita, mi aveva molto colpito già la sua analisi, anche il suo editoriale, anche qui su Radio 24, quando circa 2 settimane fa erano stati uccisi quei 5 rapinatori in Egitto, nelle case della quale, della casa, in una, nel, nella, nella casa di una del, delle mogli dei quali era stato poi trovato il passaporto di Giulio Regeni, ed era stato detto che insomma la questione appunto era così, era risolta, perché erano loro, questi cinque rapinatori, gli assassini di Giulio Regeni, una, tutta una vicenda ridicola, se non fosse naturalmente che di mezzo c'è l'assassinio dopo torture di un giovane ragazzo italiano. E già allora Ugo Trambale aveva detto appunto siamo seri, e l'editoriale di oggi è reagire con fermezza seguendo l'esempio russo, lo trovate a pagina 8. Sulla prima pagina di Imprese e Territorio un approfondimento sul Vinitaly che si apre oggi a Verona, questa grande fiera dei vini che, siccome il 2015, la vendemmia del 2015 è stata particolarmente buona, l'export è andato particolarmente bene, si spera che tutti questi trend positivi continuino nel 2016. Continua la corsa ai nuovi vigneti, il titolo dell'articolo di Giorgio Dell'Orefice, con addirittura il fatto che la quota di autorizzazioni concesse per nuovi vigneti è sottodimensionata rispetto alle esigenze di tutte le aziende vinicole italiane. Dalle pagine interne del Corriere della Sera c'è un bellissimo articolo di Massimo Gaggi, che è andato a intervistare un compagno di stanza all'università di Bernie Sanders, che sapete è il candidato alle primarie democratiche del Partito Democratico, è candidato presidenziale, non ne abbiamo dato non ci sono notizie sui giornali perché è successo una notte, ma ha vinto nel Wyoming, quindi dopo aver vinto nel Wisconsin probabilmente alla fine sarà Hillary Clinton la candidata, però Bernie Sanders è la vera sorpresa, e Massimo Gaggi ce lo racconta tramite appunto i ricordi di questo suo compagno di scuola. Ragazze, birre e pochi soldi, la notte si discuteva di diritti civili. Sulla Repubblica ho trovato un'intervista a Pier Camillo Davigo. Per le intercettazioni non servono giro di vite, come abbiamo visto anche su altri giornali, e l'accusa che gli viene spesso mossa, Pier Camillo Davigo, per chi lo ha presente, sembra veramente uno molto rigido, molto intransigente, e quindi gli si chiede, io intransigente, gli si dice, Liana Mirella gli dice, lei sembra appunto intransigente su tutto, e lui risponde, in realtà mi ispiro al Vangelo. Ci lasciamo un attimo per gli aggiornamenti sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Prima di passare ai supplementi culturali, vi segnalo un paio di articoli sulla questione Corriere RCS, perché poi un po' il verdetto su questa offerta che vuole fare Cairo, questa OPS, verrà dato anche dal mercato. Vedremo come reagiranno tutti i titoli coinvolti, in primis quello di RCS, però appunto come il giornale titola Guerra per il Corriere, la prima pagina del dorso del nostro giornale Sole 24 Ore di Finanza e Mercati spiega un po' in che cosa sta questi aggiornamenti. RCS, primi no dei soci, Piazzetta Cuccia valuta le contromosse, cioè Mediobanca, e appunto si aspetta un po' il verdetto della borsa. Come vi dicevo, Mentana ha dato interviste a tutti, una l'ha trovata anche sulla Stampa, sotto a un articolo l'offerta di Cairo non ci convince, i soci forti di RCS cercano alternative. E poi vi segnalo ancora in realtà un'ultima notizia, che è un anniversario, quello dei 140 morti della tragedia della Moby Prince, successa 25 anni fa, lo ricorderete, il 10 aprile del 1991 nel porto di Olbia, con questo traghetto che andò a fuoco e 140 persone morirono, e sono passati tanti anni e non si sa ancora veramente che cosa avvenne. Per ora c'è una commissione d'inchiesta e l'associazione dei parenti delle vittime dice forse questa è la volta buona per avere la verità. Di tutte le persone appunto che erano a bordo del traghetto, soltanto una sopravvisse, e l'ultima, adesso c'è anche spuntato un testimone che però dice che una responsabilità nella collisione del traghetto con una petroliera, che portò poi al grandissimo incendio e alla morte di queste 140 persone, una responsabilità fu appunto dei soccorritori. Vedremo insomma se si riuscirà finalmente ad arrivare alla verità. Andiamo ai supplementi culturali, anche se sono tantissimi altri gli articoli interessanti sui giornali di oggi. Partiamo come sempre dalla domenica del Sole 24 Ore, dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Il sudario, ed è in realtà una citazione, parte da un aforisma di William Barclay, che dal suo, in questo Spiritual Autobiography del 1977 scriveva: chi cerca i tesori della terra un giorno dovrà dir loro addio, perché, come dice un proverbio, non ci sono tasche in un sudario. E il commento di Gianfranco Ravasi è: durante una sua omelia tempo fa, Papa Francesco ha evocato un ammonimento che sua nonna gli rivolgeva da piccolo. Jorge, ricordati che il lenzuolo funebre non ha tasche. Ritrovo lo stesso aforisma, appunto, in questa Spiritual Autobiography di un teologo e pastore scozzese che fu anche conduttore televisivo, William Barclay, nato nel 1907 e morto a Glasgow, dove insegnava nel 1978. Il suo è un detto di matrice evangelica. Chi non conosce la parabola del ricco insensato che accumula e una sera sente una voce che gli dice: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà? Un tratto dal Vangelo di Luca, un monito che tutte le sapienze colte e popolari, antiche e moderne, ripetono, ma invano. Eppure sappiamo che ciascuno di noi, quando muore, con sé non porta nulla, né scende con lui la sua gloria. E questo è tratto da un salmo. Il memorandum del nostro direttore, nostro del Sole 24 Ore di Radio 24, dedicato a Marco Carassi, questo grandissimo archivista della Fondazione Banca Intesa, dove sono stati presentati appunto gli archivi che riguardano soprattutto la storia di Milano, da qui il titolo I padri fondatori di ieri e la Milano del lavoro di oggi. E partecipando alla presentazione di questo immenso lavoro di ordine negli archivi, Roberto Napoletano commenta: magari mi sbaglio, ma tra molte di quelle carte, foto d'autore, lettere inedite, mi è sembrato di riannodare il filo della memoria che arriva ai nostri giorni e spinge un'intera comunità, la Milano del lavoro, armata di spugne e scope, a scendere in strada con un semplice passaparola e a ripulire i palazzi devastati dal Black Bloc per restituirsi la loro città, da soli, in silenzio, con il piglio della storia. La storia di copertina però è dedicata a una data particolare, il 23 aprile 1616, in cui appunto 400 anni fa morivano contemporaneamente William Shakespeare, Cervantes e Garcilaso de la Vega e Lincoln, il narratore della conquista di Florida e Perù, da cui molti, molti libri, molti convegni, e soprattutto poi trovate all'interno del Sole 24 Ore, alle pagine 32 e 33, un approfondimento su Shakespeare. Molto interessante l'articolo di Adriana Castagnoli, che prende spunto da un testo che si intitola Ragioni e torti dell'economia, di Dani Rodrick, che viene pubblicato in questi giorni dall'editrice Bocconi. Modelli che spiegano troppo. Il 2008 ci ha insegnato che le teorie economiche possono fallire per eccesso di fiducia in se stesse. Avranno imparato la lezione? E poi vi segnalo, sarebbero tantissimi gli articoli anche sulla domenica, ma scorriamo velocemente anche gli altri supplementi, la lettura del Corriere della Sera, come sempre la copertina dedicata a un artista, questa settimana è Michel Blasi, e poi dall'interno vi segnalo questa bella storia, perché è un po' la passione della divulgazione scientifica, della scienza raccontata bene da chi scienziato non è, magari da invece chi scienziato è. E allora Guido Tonelli ci racconta questa caccia alla prima anomalia dell'universo, il libro appunto La nascita imperfetta delle cose, di cui il Corriere pubblica uno stralcio, racconta l'impegno per realizzare la macchina che produrrà milioni di bosoni di Higgs. Oltre 400 scienziati si riuniscono a Roma con un sogno: costruire il più grande acceleratore di particelle della storia e conoscere, insomma, la verità, diciamo, scientifica dell'inizio del mondo. Poi ci sono naturalmente tante altre verità e spiegazioni che continueremo a cercare sul significato della vita e l'inizio della vita. Una bella intervista di Michele Farina d'Arino da Londra a Ian McEwan, uno dei più importanti narratori britannici contemporanei, che tifa contro la Brexit. Sapete che in giugno i britannici sono chiamati a votare, il 23 giugno, se per restare o no nell'Unione Europea, e qui ospite anche venuto di recente in Europa, l'autore inglese anticipa il titolo del nuovo lavoro, che è anche un omaggio a Shakespeare, e poi dice: dedichiamo troppe attenzioni all'estremismo islamico, meglio pensare all'amore, a Mozart, alle Dolomiti. Un bellissimo articolo su William Kentridge, del quale in questo momento ci sono due mostre, una a Milano e una a Roma, il grande artista sudafricano. Disegno, dunque, sono un esploratore. E a proposito di disegnatori, anche se forse veramente la parola è limitativa. La Domenica della Repubblica, la copertina la dedica a Zero Calcare, questo giovane illustratore italiano, che è illustratore, autore di fumetti, che è tornato a recarsi a Kobane da Rebibbia, dove vive, perché Rebibbia non è solo il carcere ma è un quartiere di Roma. Da Rebibbia a Kobane, lo dico perché io personalmente, quando l'ho sentito parlare per la prima volta, mi sono un po' stupita, appunto. E Diario di viaggio con Mammut, tra una guerra e un'utopia, il nuovo libro del fumettista romano. Qui se ne anticipano alcune parti, ma c'è anche una bella intervista dove spiega che cosa lo ha spinto di nuovo a tornare a Kobane, un'intervista di Luca Valtorta, e che cosa spera, insomma, di chi spera di raggiungere con questi suoi racconti a fumetti. Non posso non segnalare la recensione di Michele Mari al Gatto Murr di E.T.A. Hoffman, che è stato ritradotto, torna in libreria il classico dimenticato di Hoffman con protagonista e voce narrante il miglior amico a quattro zampe del grande autore tedesco, che non era un cane ma un gatto. Ultimissima segnalazione per la serie Straparlando, le interviste su due pagine a proposito di grandi illustratori, sempre illustrate da un disegno di Riccardo Mannelli. Questa settimana è Aldo Masullo, filosofo, che è infatti l'intervista di Antonio Gnoli è intitolata La filosofia mi ha insegnato che nessuno di noi si salverà da solo. Ultimissima segnalazione, mi dispiace perché c'erano tante altre cose, consiglio di comprare più giornali possibile oggi, leggere la cronaca, ma soprattutto i supplementi culturali. Una buona domenica da Giulia Crivelli.